È qui con noi Federico Del Cua. Grazie per essere qui, Federico. Grazie a voi, ciao a tutti e tutte. Siamo qui per parlare di festivale, cioè il festival organizzato in sostegno alle popolazioni alluvionate dell'11 giugno a Villa Angeletti. Dunque, Federico, da dove nasce l'idea di organizzare questo festival? Questa idea è in piena continuità con l'enorme espressione solidale che penso Bologna in queste settimane ha dimostrato verso le città, i paesi, comunque i territori maggiormente colpiti da questa alluvione, nel senso che per l'appunto il festival nasce all'interno di una rete che il 18, quindi il giorno dopo, insomma, l'ondata più forte di questa alluvione, si è messo subito in moto sia per portare aiuti attivi e quindi organizzarsi con le carovane per cibo, beni di prima necessità, ma anche proprio per spalare, per portare attivamente braccia, insomma, e aiutare ad uscire dal fango, sia dall'altra parte per evidenziare le responsabilità politiche che in questa situazione ci sono e devono essere evidenti. Quindi un po' su entrambe le motivazioni e andando avanti col tempo si è deciso che sia da un punto di vista di aiuti, quindi la possibilità di una raccolta fondi che fosse di massa, quindi con un evento interamente poi devoluto, no? L'acquisto di beni di prima necessità, di aiuti concreti per questi territori, sia dall'altra parte la possibilità di creare un evento grosso che quindi attiri l'attenzione pubblica, riempito da contenuti politici, nel senso che poi magari ne parleremo più approfonditamente dopo, ma il festival si divide in due parti, una più politica, teorica, con degli esperti, e una seconda più musicale. Ecco, ci sembrava il format giusto da mettere in campo in questa situazione. Ecco, allora, a proposito della prima parte, cominciamo con quella. Quali saranno gli esperti e le esperte chiamati ad intervenire e su quali temi? Sì, allora, abbiamo provato, no, a dotarci di mezzi, di lenti prettamente scientifiche per analizzare e mettere a critica anche questo fenomeno, quindi l'ondata di maltempo che ha in qualche maniera condannato questa regione e continua a condannarla a giorni di incerta anche possibilità di muoversi, di poter continuare la propria vita in maniera normale. Quindi abbiamo chiamato una chiamata raccolta, potremmo dire così, di personale scientifico, quindi da professori del Politecnico di Milano a veri e propri addetti ai lavori rispetto ad esempio a tutto il tema delle falde acquifere e quindi anche del possesso. Ecco, e stiamo provando quindi a costruire una tavola rotonda con più voci, sicuramente partecipativa, quindi non un incontro frontale e basta, però ci sembrava necessario in qualche maniera dotarci di lenti che fossero appropriate rispetto alla situazione eccezionale che stiamo vivendo. Anche l'assemblea in piazza dello scorso fine settimana, insomma, è stata caratterizzata da questa doppia ottica, devo dire la verità, nel senso per cui crediamo che, insomma, oggi affrontare, no, il tema dell'emergenza climatica, quando qualche anno fa si diceva non c'è più tempo, ce lo dice la scienza, ecco, forse ritornare a far nostro anche una possibilità di sapere scientifico può essere la giusta modalità per poi andare a ricostruire in maniera diversa da come non si è fatto fino a questo momento. Mentre per quanto riguarda la seconda parte della giornata, quindi dalle 15 in poi, mi confermi che cominceranno i concerti? Sì. Abbiamo visto che c'è una lineup bella ricca, anche con artisti affermati come Dolce Nera addirittura e God Bless Computers. Chi potremo, sì, ascoltare, diciamo, e come sono stati coinvolti questi artisti? Ecco, diciamo che nella stessa maniera con cui stiamo provando appunto a creare tavola rotonda, abbiamo lanciato una call aperta anche tra giri di contatti, insomma, che siamo riusciti ad avere, una call che da un punto di vista artistico ha avuto un discreto successo, crediamo, nel senso che appunto ad oggi sono in scaletta più di 10 nomi di anche una determinata, no, tra virgolette, importanza, fama, e su generi diversi. Pensiamo a DJ Graff da una parte e a Dolce Nera dall'altra, a Mother da una parte e anche ad esempio la banda popolare dell'Emilia Rossa, no, dall'altra ancora. Quindi stiamo provando a creare un format che riesca in qualche maniera, innanzitutto da un punto di vista artistico, a dar voce, a dar spazio anche a suoni diversi, e dall'altra parte a coinvolgere quindi anche, come dire, personalità personalità che oggi magari fanno musica e hanno voglia però di spendersi attivamente rispetto a una possibilità di aiuto concreto per i territori alluvionati, nel senso che tutti questi artisti ovviamente sono stati coinvolti nello spirito, no, di quella che è stata fino ad adesso l'ondata solidale, quindi senza richiedere nulla in cambio ma dando tutto quello che si può, e quindi per l'appunto siamo sinceramente felici del fatto che una call, come dire, ovviamente che puntava anche alla gratuità, no, con cui sono state chiamate queste artiste a suonare, ecco, abbia riscosso così tanto successo, quindi siamo veramente felici di poter ospitare sul nostro palco 10 artisti del genere che per l'appunto stanno venendo in maniera gratuita, spinti da un sincero desiderio di solidarietà e di messa in gioco rispetto a quelli che sono i propri mezzi possibili, quindi in questo caso o cantare o suonare o comunque coinvolgere il pubblico in questa maniera.